prima puntata 2023 per il Voltiamo Pagina prima dello stacco natalizio. La formazione in studio è già completa, si può dire un'antivigilia di Voltiamo Pagina. Seguirà poi un ultimo appuntamento dedicato al Premio Pellegrino 2023. Intanto puntualissimi Stefano e Silvia già in studio. Buongiorno Silvia. Buongiorno a te, a tutte e a tutti. E buongiorno a Stefano che fa ciao con la manona, non manina. Intanto noi iniziamo questa nostra playlist anche musicale curata da Silvia e Stefano e portata a commento delle presentazioni odierne. Intanto due parole sulla stagione. Il Premio Pellegrino sarà, non dico ridotto, perché avremo ovviamente delle presentazioni che poi metteremo al microfono nella prossima puntata, ma un 2023 che, per definirlo un po' in maniera albertazziana, non ha entusiasmato, no? È vero, è verissimo. Sì, confermo, ma noi abbiamo cercato di selezionare ovviamente quello che più ha entusiasmato la nostra lettura durante il 2023. Andiamo verso la conclusione e iniziamo con playlist letteraria. Non ti ho chiesto niente, un blind date, appuntamento al buio anche per me, e quindi ti lascio la parola per aprire queste due presentazioni. Di chi si tratta e di che si tratta? Ok, allora oggi presentiamo l'ultimo libro prima della fine dell'anno, perché poi la settimana prossima, come tu hai detto, riassumeremo un po' quelli che sono per noi i candidati per il Pellegrino. Ne sceglieremo tre a testa, quindi parleremo di sei libri la settimana prossima. Ve li ricorderemo, cioè, perché oramai dovreste conoscerli, perché ci farebbe piacere appunto che foste voi a votare una volta tanto il Pellegrino. Dunque, il libro invece che presento oggi non entrerà nella sestina finale, però è un libro molto gradevole. Gradevole è la parola sbagliata, e vedremo perché. È un libro che si legge molto bene, si intitola La Cocca ed è di una scrittrice neozelandese chiamata Catherine Chidgey. Io spero di averlo pronunciato bene, perché non ho la più pallida idea di chi sia questa signora né come si pronunci. Non ha origini aborigene. No. Non è una Maori. Esatto, per meglio dire. Anzi, qui il risvolto di copertina mi dice che è una pluripremiata scrittrice neozelandese. Ha vinto, infatti, poi mi cita un sacco di libri che le hanno dato dei premi. Io appunto ripeto, non l'avevo mai sentita dire, però devo dire che scrive molto bene. Dunque, l'editore è EO, che è una casa editrice, mi sembra, di cui ci si possa fidare, e il libro è molto particolare, perché inizia come uno pensa di trovarsi di fronte al classico romanzo di adolescenti. Storia di adolescenti in contesto scolastico, ce ne sono parecchi, quindi piccole rivalità tra bambini, tra ragazzini, siamo preadolescenti, sono dei dodicenni, ragazzi in una classe mista di dodicenni, in una scuola religiosa, quindi c'è anche il discorso dell'educazione cattolica. E questi bambini che fanno a gara appunto per essere i cocchi, o come si dice, almeno come dicevamo noi a Bologna, i cocchini. Sì, com'è tradotto? Qual è il termine originale? C'è scritto? Pet. Ah, e questo pet, ti spiega la playlist. Certo. The pet, cioè il pet, l'animaletto da compagnia. Sì, l'animaletto da compagnia, esattamente. E infatti in questo titolo La Cocca non mi piace per niente, però non saprei come avrebbero potuto tradurlo. Sì, anche perché è molto dialettale, sì, è un termine, è bellissima la traduzione del titolo. Infatti, però il libro invece è un libro veramente che si legge d'un fiato. Perché? Perché appunto parte, all'inizio resti un po' spiazzato, perché dici, ma solito raccontino di disavventure scolastiche, la protagonista è una bambina di 12 anni che ha appena perso la mamma e vive con il babbo che non riesce a elaborare il lutto, quindi quasi questa ambientazione che sembra quasi vittoriana, insomma, quasi alla Genève. Il libro cuore, un De Amicis. Beh, ma non però è così. Cominci subito a vedere che è un De Amicis dove i Franti prevalgono sugli Enrico. Ah, ok. Bella questa citazione, tra l'altro. E soprattutto le ragazzine sono veramente delle carognette. E perché tutte fanno a gara per essere la cocca, appunto, di questa nuova professoressa che è arrivata, bellissima, giovane, con un passato difficile alle spalle, ha perso un incidente a tutta la famiglia, la quale appunto ha questo vezzo di circondarsi di allievi preferiti o allieve preferite, alle quali fa fare dei lavori che io personalmente troverei umilianti, cioè pulire la lavagna alla fine della lezione, sbattere i cancellini. E loro sono felicissimi fanno a gara addirittura quando la protagonista diventerà la cocca della professoressa andrà a fare le pulizie a casa. Ah, dicevo, cucina magari. Dunque, fa il bucato. Sì. Il libro si svolge negli anni Ottanta, non nel secolo scorso, negli anni Ottanta del Novecento, e una cosa che comincia infatti a lasciarti interdetto anche dalle prime pagine è vedere come in questa scuola cattolica, retta da un religioso, con le suore ci sono, non insegnano ma sono presenti, bene, in questa scuola cattolica passino delle cose che in una scuola normale nostra sarebbero, cioè, allucinanti. Sarebbero state allucinanti anche negli anni Ottanta. Sì. Non solo le punizioni corporali a base di frustate sulle mani, ecco, ma anche appunto questo usare i bambini come schiavetti, se vogliamo. E soprattutto una cosa che a me ha lasciato proprio interdetta, la maestra, l'insegnante, che sente le bambine che parlano male l'una dell'altra, ma in maniera molto forte. E lei fomenta, magari. E lei fomenta. E quando cominciano a sparire degli oggetti in classe, ci sono dei furti sempre più di piccole cose, però di cose che sono particolarmente care ai bambini. E ne spariscono sempre di più. A un certo punto qual è l'idea geniale dell'insegnante? Quella di chiedere a tutti i bambini di scrivere su un foglietto anonimo il nome di chi è secondo loro il ladro. Ecco. E poi quello che avrà il maggior punteggio o quella che avrà il maggior punteggio sarà la punita. E figurati un po', quindi veramente sembra un po' le Nazioni Unite quando fanno. Intanto do il buongiorno a Sabina che scrive: è successo anche a me che ero la cocca insieme a un'amica della prof di inglese, qui faccio la citazione, sicuramente anche Silvia non è innocente, alle medie, e lei ci invitava a casa sua a fare le pulizie. No! Hai capito? Peccato, perché potevi prendere spunto magari da questa cosa. No, questa a me sembrava una cosa fuori dai coppi, come però si dice a Bologna. Si parlava in inglese, un inglese domestico. Allora. Perdonabile, dai. Dava ripetizioni alle sue cocche, ma intanto i vetri, lo straccio, la polvere dai mobili. Che bel esempio. Che bel esempio. Bene, sarà contento il ministro Piantedosi. Non diamo delle idee. Sì, perché questo è tirocinio, no? Certo, è la scuola professionalizzante. Ti abitua a un percorso anche lavorativo, ed è giusto così, se vogliamo, con la strada che stiamo prendendo non ci meravigliamo più di niente. Torniamo comunque a parlare del lavoro. E appunto, inizialmente il romanzo è su questi termini. Ti fa un po' arrabbiare, però adesso se mi dici che succedeva anche da noi. C'è una testimonianza, appunto. Di anche messo la scopina, ecco, come simbolo. Io spero solo che a lei poi le cose non siano andate come alla nostra no. cocca. Perché il romanzo, man mano che si va avanti, diventa sempre più avvincente, mentre all'inizio sei un po' così, lo leggi, è gradevole, ma diventa sempre più avvincente perché sei sempre più sotto pressione, ti rendi conto che c'è qualcosa che non quadra in tutto ciò. Ma dai! Soprattutto in questa insegnante. E nel fatto di come tutti se la stiano prendendo, abbiano individuato come ladra la migliore amica della protagonista, che è una ragazzina di origine cinese, che quindi è il diverso in qualche modo. Certo. E non so, e la nostra protagonista, che ripeto ha solo 12 anni e sta uscendo, anzi ancora dentro, ha un trauma molto forte, enorme, come quello della mamma, della morte della mamma, lei si è talmente affezionata alla professoressa che si trova a dover scegliere tra difendere la sua amica, che sa che non è colpevole, e però se difende la sua amica perde in qualche modo le grazie della professoressa. Ma quante attinenze ci sono con la politica estera. Oh, guarda, intanto do il buongiorno anche a Sergio, che scrive: almeno a Natale anche Stefano dovrebbe dire ciao, non solo con la manina. Dopo passiamo il microfono a Stefano. Sergio, intanto procediamo. E niente, le cose naturalmente si complicano quando la professoressa intreccia una storia con il padre di questa ragazza che è rimasto vedovo, no? Sì, della ragazzina. Sì, della protagonista. Della protagonista. Della cocca. Uila, e intreccia. Il padre, che era dopo la morte della moglie, addirittura si era dato all'alcol, si lasciava andare, eccetera, rifiorisce. Evoca, guarda un po'. Beh. Quindi a maggior ragione la nostra protagonista non vuole perdere questa madre surrogata che sta per trovare, la quale disastro. Ogni tanto ha dei comportamenti un po' strani, però è sempre una figura che potrebbe diventare protagonista non solo a livello didattico ma a livello di vita. Sì. Arriviamo proprio al momento in cui si stabiliscono le nozze. Si decide che i due si sposano e qui cominciano a esserci dei problemi che non rivelerò, perché fermiamo. Da questo momento in poi il romanzo diventa nero. Ah, ma il mio libro non è mica così accattivante, eh. Dico, complimenti per la scelta, Silvia, come non andrà nella terzina tua Pellegrino? Ci sono i presupposti, però insomma dai, certamente libera scelta anche per voi ascoltatrici, ascoltatori, e ci mancherebbe, non abbiamo cocchi noi tra no. Però potremmo invitarvi a fare le pulizie, se per scherzo ovviamente. Qui ce ne sarebbe bisogno. Pet Shop Boys, dalla traduzione del titolo Pet, appunto, ce li ascoltiamo, a tra poco. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, oh, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would what I'd be without you. Correcto. leggo io, scrive Sergio al 333-180-9494. Il dissidio tra aiutare un compagno e uscire dalle grazie del professore forse è la prima scelta in campo etico che accade a tutti i bambini e i ragazzi. Il proverbiale prendere 4 perché ha aiutato un compagno nel panico, e così dalla scuola si imparano individualismo ed egoismo. Esattamente, Sergio, grazie. E anche il mio refuso con i Beach Boys, il disco è Pet Sound, e quindi mi correggo prima che ho tolto il microfono a Silvia perché avevo paura delle bacchettate sulle mani, visto che siamo in tema. No, volevo solo dire appunto che erano i Beach Boys, certo. E il disco è stato scelto perché si chiama Pet Sounds ed è uno dei dischi fondamentali. Sì, tanto più che Brian Wilson ci rimane male, sapete, del suo confronto con i Beatles, e lui, dopo aver ascoltato un disco dei Beatles, cosa fa? Prende The Pet Sound, convinto che fosse un capolavoro, e lo butta nell'oceano, dice, di fronte a questi giganti. C'è chi dice però che invece i Beatles abbiano fatto uno dei grossi influssi di Sgt. Pepper sia proprio Pet Sounds. Sì, ci sono tante leggende. E comunque cose concrete. La canzone che abbiamo appena ascoltato, God Only Knows, è considerata una delle più belle canzoni in assoluto del Novecento. Confermo. Quindi, è molto bella. Anzi, io tra l'altro. Quindi, insomma, Brian Wilson forse ci rimarrebbe male anche se sapesse che è stato paragonata ai Pet Shop Boys. Molto no, qui altro che bacchettata sulle mani, con tutto il rispetto per il duo dei Pet Shop Boys, ci mancherebbe, però uno spessore ben diverso. Ma io, diciamo, e poi ti dico un'altra, abituato ascoltatrice, ti dico un'altra cosa, queste mie confusioni. Posso dirti un'altra cosa? Tu eri voltato di spalle, guardavi fuori dalla finestra, è entrato il presidente e ha detto Beach Boys. Ah, adesso è finita. No, ma è stato un refuso, adesso lo correggo anch'io, ogni volta entro in studio. Dai, dopo queste piccole particolarità per quanto riguarda la nostra diretta al Voltiamo Pagina, aggiungo che oltre a tante attinenze a quella che può essere la politica estera odierna, in quello che abbiamo appena presentato, anzi che ha appena presentato Silvia, vivendo la provincia del nord-est più estrema, vi sono tante attinenze che non vado a svelare con quella che è una quotidianità scolastica, che certamente ci possono riportare alla cocca, The Pet. Ecco, io aggiungo solo che, come ti ho detto, da un certo punto in poi il romanzo diventa sempre più nero, quindi spero che le attinenze non arrivino lì, perché veramente ci sono delle svolte inquietanti che uno non si aspetterebbe. Certo, e infatti non svegliamo, ma lo metti in palio. Sì. Bene, intanto allora abbiamo due libri per voi, a breve avremo anche il quiz. Hai detto che per le tue impressioni l'autrice scrive molto bene. Si legge molto bene, esattamente. Non è un libro, non è esattamente piccolo, ma non è neanche particolarmente, ecco, diciamo così, immediato o corposo. Ecco, è qualcosa che potrebbe essere definito, seppur particolare, una strenna. Diventa nero. No, ecco, appunto, a Natale non regalerei un libro che ha degli svolti di questo genere, se uno non lo sa. E poi anche non è la strenna, di solito è un libro piuttosto elegante che costa parecchio, questo okay, è no, un questo libro è normale, insomma, sì, normali, sì, edizioni EO. E sì, lo regalerei magari per la Befana, non lo so. No, è che abbiamo fatto, ricordi, la scorsa stagione i libri strenna. Sì, mi ricordo. Allora, per quanto riguarda la mia scelta, mi sono un pochettino ispirato. No, però se uno ha degli amici o delle amiche che amano, insomma, delle emozioni forti, questo può essere interessante. Qua ci sono. Devono avere la pazienza però di superare le prime 100 e passa pagine. Dove è più edulcorato? Sì. dove è decisamente più edulcorato, ma ovviamente il percorso di narrazione nella scrittura di questa autrice, e comunque non è violento, eh? Ah, non ho dubbi, è tutto psicologico, e anche quando accadono dei fatti tragici sono, sono lasciati, diciamo così, nel background, noi non li vediamo, ed è proprio quel non detto che si porta avanti e che dà adito a tutta una serie di illazioni, per cui il mistero, diciamo, verrà scoperto solo alla fine, quando la protagonista oramai è già grande, è già una donna adulta, che però si porta dietro questo trauma. Seppur comunque abbiamo modalità e tipicità diverse di lettura, siamo alleati in questo, che tutto ciò che è truculento non è che sia esattamente nelle nostre corde, per cui certo anche questo abbina ulteriormente a un gusto, secondo me anche molto raffinato, quello del non detto e nel saper trasmettere l'emozione, non dico dietro le quinte, in questo caso meglio dire tra le righe, ma in maniera molto evidente. Questo è il famoso saper scrivere. Allora, è il momento del quiz, visto che lo mettiamo in palio. Sì. Però mettiamo prima il secondo brano musicale portato in playlist. Hai detto oggi ho portato delle hit. Sì, non l'ho fatta apposta. No. Ho portato Under Pressure, perché questo è un libro che ti tiene sotto pressione dall'inizio alla fine, praticamente. E restate in frequenza o connessi, perché a breve avrete il motivo di quiz per ottenere la cocca nella vostra biblioteca. A tra poco. di nuovo in diretta, puntuali alle 8:28 minuti di questo 13 dicembre, il mercoledì magico di Radio Città Fujiko. È il momento di scoprire chi saranno i cocchi del Voltiamo Pagina tramite quiz. Quindi noi vogliamo, anzi la prof vorrebbe sapere da voi, per avere il libro che abbiamo appena presentato, che ti confesso, Silvia, un po' la tua bella presentazione e anche le tematiche a me ha particolarmente incuriosito. Quindi via! Allora, quello che voglio sapere, secondo me è molto semplice, però non lo so. Vorrei il nome della più famosa regista neozelandese che decenni fa vinse un Oscar anche. La più famosa regista neozelandese, magari l'unica, non lo so. Magari l'unica, ha vinto anche il prestigioso premio Oscar. 3, 2, 1, via! Cerco di dimenticare, sentirti mia per sempre come un sogno, e ovunque la tua immagine m'appar, sei per me la sola donna e voglio amarti per l'eternità. Risento come musica divina la voce tua nel sussurrarmi, t'amo. Averti fra le braccia è un desiderio. E questa volta bacchettiamo un pochettino la prof, che ha dato il brano sbagliato in questo disco raccolta, ovviamente di Luigi Tenco, grande Tenco. Se stasera sono qui, stiamo ascoltando un brano che non era in playlist. Il brano è il multiplo del numero 3, la numero 6. Ho letto anche il titolo, infatti, e ho capito il perché. E aspetta che lo rileggo, perché non voglio fare, cara maestra, ovviamente, certo. Aspetta che due note, poi la teniamo come base. Che a questo mondo noi siamo tutti uguali. E dice giustamente Sergio, Tenco non è mai sbagliato. Ha ragione. Confermo. Direttore, ci facevi alzare tutti in piedi. Allora, la nostra classe è veramente molto numerosa e io ne sono molto felice. Chiediamo solo una cosina che per noi è importante: la prof da Ubik mette in palio dei libri a sorpresa, solo che lei un pochettino è distratta e dice: non li ricordo neanche più oramai quelli che ho messo a sorpresa. Chi ha vinto? Può scrivere cosa ha vinto? E quindi aspettiamo questa risposta da chi ha vinto un libro misterioso al 333-1809494, dove si ritira da Ubik, ringraziando per la collaborazione la libreria in via Irnerio 27, dove potrete ritirare anche i premi odierni. Allora, iniziamo con questo Dream Team. Intanto la risposta, Jane Campion, risposta esatta Marina, ma non sei arrivata esattamente prima. Jane Campion con Lezioni di piano, addirittura vi è importato il titolo da Michele. Anche Elisa risponde esattamente, Luigi, Jane Campion, Lezioni di piano. Arriva Gianluca con risposta esatta, e poi Dino dalla Bolognina, aspetta, qui mi appello a te, Aspetta, Taika Waititi. Io non conosco questa. No, questa già era Jane Campion, ho detto famosa. Sì, Jane Campion. Però ho letto tutti. Sì. Non ci sono bacchettate, Dino, tranquillo, anzi, solo ringraziamenti. E al posto tuo è morta tanta gente che non voleva né vincere né morire. Anche Jarno da Calderara nella nostra classe porta Jane Campion, lezioni di piano nel 1993, Oscar per la sceneggiatura. Risposta esatta. Arrivano altri messaggi, un attimo che cerchiamo di leggerli tutti come è giusto che sia. Vediamo anche questa risposta esatta. Jane Campion è anonimo l'ascoltatore. Ciao ragazzi, io ho vinto l'arte del calcio sovietico. Con i magazine alcune settimane fa, bellissimo saggio, confermo, e probabilmente il saggio per il premio Pellegrino saggistica di questa stagione, ma ne parleremo nei magazine di questo. Intanto grazie. Lontano, ma sei come le altre, tu sai di Jane Campion, io ho vinto un libro misterioso, un romanzo su Giovanna d'Arco, si intitola Giovanna se ricordo bene. Vero. Oh, e sai chi ha risposto? No. Il nostro cocco, Andrea, che è arrivato primo, e scrive Jane Campion, e hai vinto anche il libro, non certo misterioso, ma in presentazione per oggi. Grazie Andrea, potrai ritirare il premio in libreria Ubic, ma ringrazio tutte e tutti di questa numerosa classe del Voltiamo Pagina, dove io sono umile bidello, però anche il bidello può portare per voi in premio una pubblicazione che è qua al mio fianco a breve. Solo a te, così come le altre che non esistono. Non conoscevo quest'autrice, Barbara Kingsolver, eppure le vetrine ne sono piene di questa copertina. È un'edizione Bloom, neri pozza, copertina molto ben curata. Il titolo è Demon Copperhead. È un libro che ha vinto diversi riconoscimenti. Per quanto riguarda il 2023, anche il Booker Woman Prize e altri, anzi, Woman Prize for Fiction, per dirla in maniera più precisa. E aggiungo anche che potrebbe essere, per così dire, una strenna natalizia, anche se ovviamente mi sono tremate le vene ai polsi, perché Demon Copperhead, la copertina, il volume e quant'altro, dico, sta a vedere che qui David Copperfield di Dickens c'entra qualcosa, e come, e conoscendo Silvia, portare un lavoro di interpretazione di Dickens diventa sempre qualcosa, insomma, è come al Mood Groove parlare di Larry Bird per me, ed è, diventa poi difficoltoso, ci addentriamo in un terreno scivoloso. È un libro molto corposo, è un libro che può tenervi compagnia per Natale, un Natale un po' da Grinch se vogliamo, ma allo stesso modo comunque un lavoro che può stimolare poi in approfondimento ad altre letture. Beh, le realtà le conosciamo, la storia di un ragazzo che tanti chiamano Demon Copperhead, un eroe per così dire dei nostri tempi, questo ragazzo che nasce nella provincia americana, che può contare solamente su questo suo bell'aspetto e bella presenza che ha ereditato da suo padre, uno spirito molto aguzzo, il vizio di sopravvivere e il suo esordio nell'universo, una mamma giovanissima che partorisce da sola in estrema povertà con una bottiglia di gin, anfetamine e oppioidi come motivo di consolazione. È una una casa mobile sperduta nella provincia degli Appalachi meridionali negli Stati Uniti d'America. Da lì ciò che verrà dopo. Damon inizia questi suoi percorsi, la sua corsa per così dire perdi fiato attraverso la vita, sfreccia per le selve oscure dell'affido, dal lavoro precario, il lavoro minorile, le scuole fatiscenti, e non è certo nel segno di un'ebbrezza di successo, un successo che cercherà di trovare anche nel mondo dello sport, un percorso di vita che poi lo vedrà crescere tra amori sbagliati, tra amicizie sbagliate, e insomma le attinenze ovviamente con un David Copperfield ci sono, e come, anche se il nome è Damon Copperhead. Barbara Kingsolver, scrittrice americana quanto mai acclamata, se fate caso sulle vetrine di diverse librerie troverete questo lavoro, la copertina è molto accattivante, il contenuto vi può tenere compagnia per un Natale un po' alternativo, è il libro che ho portato in palio per quest'oggi per concludere la selezione 2023 in attesa del premio Pellegrino. A breve anche il mio quiz, prima ascoltiamo l'ultimo brano in playlist portato da Silvia e Stefano, si tratta di Hatred, Odio by Rufus Wainwright. Questo è più adatto per il mio libro, e quindi va benissimo. Sì. Sì, guarda, sì, che di odio ce n'è tanto, ce anche n'è. Nell'altro. Drain the mold, empty the catapult, hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key for any prisoners. There won't be any need. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Sit down and wait. Wait on the throne for it to take and for the beast to come. Devils, devils and angels, I'm gonna get myself away. I'm gonna get myself away. Dispense with the niceties. Over, over the neither. I'm gonna get myself away. Quiz. Anche a me piace molto Rufus Wainwright, quindi oggi una playlist di hit da parte di Silvia e Stefano che ringrazio. 3331809494 per avere Damon Copperhead, il romanzo ultimo di Barbara Kingsolver, pluripremiata edizioni Neri Pozza. Parliamo di un altro protagonista che in questo caso è molto più natalizio, è un ragazzino che su una zattera scappa sul Mississippi, farà amicizia con uno schiavo fuggiasco, incontrerà un altro amico che è capo di una banda che diventerà poi spin-off e un altro personaggio letterario. Ne è stato fatto anche una serie di cartoni animati giapponesi. Chi è questo ragazzino dal nome un pochettino lungo e se vogliamo quindi non chiedo una scrittura del nome esattamente perfetta, però vorrei nome e cognome di questo protagonista che con le sue avventure sul Mississippi ha portato alla nostra fantasia nei romanzi di lettura giovanile tanti motivi di ispirazione. Di chi si tratta? 3331809494. risposta esatta arriva per dare qualche indicazione a Huckleberry Finn, però gradirei ovviamente anche il nome della vincitrice, penso vincitrice o vincitore, che mette unicamente il titolo. Abbiamo pochi minuti, mi raccomando, firmati, se no sono costretto a cedere il premio. 103.1 Radio Città Fugico, il nostro voltiamo pagina, sta volgendo al termine. Ecco, Luigi ha citato lo spin-off che è Tom Sawyer. No, la risposta esatta è Huckleberry Finn. Sei molto preciso, Huckleberry Finn, l'amico è ovviamente Tom Sawyer. Grazie Marco e grazie anche a Jarno di Calderara. Quest'oggi sul tempo per un attimo siete stati battuti da Giulio, che arriva al primo posto in questa nostra seconda presentazione per avere Damon Copperhead, Barbara Kingsolver, edizione Neri Pozza. Ovviamente grazie a tutte e a tutti. Vi aspettiamo alla cena di Radio Città Fugico domani alle ore 20:30, Villa Paradiso, via Emilia Levante 138. Per gli auguri, per conoscerci, un ottimo menù tra l'altro. Abbiamo una classe veramente numerosa, Silvia, questo è bello. Bello, allora gli ricordiamo che c'è il video, che se ci vuole... Oggi c'è il video, lo trovate sulla pagina di Radio Città Fugico, dategli un'occhiata ogni tanto ai nostri video. E domani noi saremo dal vivo a Villa Paradiso, così troverete il tavolo del Voltiamo Pagina. E okay? Nel video, aggiungo, in fondo da qualche settimana c'è anche la playlist. Wow! Quindi se uno vuole riascoltare i brani sa dove trovarli. E noi ci troverete per il premio Pellegrino mercoledì prossimo per l'ultima puntata 2023 del Voltiamo Pagina, la prima puntata utile dopo il 6 gennaio ci sarà la proclamazione, e con un caloroso abbraccio, ringraziandovi per la partecipazione e l'attenzione, ci congediamo a voi. Domani in mostra, come ogni giovedì sui 103.1 per la prima colazione in diretta, ricordando che a breve Liberi Dentro, a seguire Rassegna Stampa, e non dimentichiamo le dipende enciclopedico, saranno sui 103.1 e il Rock Live di Nevio vi accompagnerà a pranzo dalle 10:30 alle 12:30. Questa puntata del Voltiamo Pagina, come di consueta, è stata curata da Silvia Albertazzi e da William Piana. Ciao! Ciao!